Pensavate di avere i capelli più lunghi del mondo? Sbagliato. Dovete fare i conti con questo guaritore tribale della Thailandia, un certo Ho Se To, che ha i capelli più lunghi del mondo. È entrato di diritto nel Guinness dei primati. Forse ce li ha lunghi 2,15 metri? Ma... Sciocchezze. Molto di più. E allora forse, come ipotizzato dalla soluzione B, ce li ha lunghi 5,15 metri? Beh, qui già ci siamo. E allora, sì, risposta la risposta è giusta. Il nostro eroe cominciò a farli crescere nel 1929 perché credeva che fossero la causa dei suoi poteri curativi. Un novello Sansone. Dice che l'unica volta che si è sentito male fu quando li tagliò a 18 anni e decise allora di non tagliarli più. Seguendo i suoi passi, il fratello Yi ha lasciato crescere i propri capelli fino alla lunghezza di 4,92 metri. Entrambi lavano i propri capelli una volta all'anno con sapone e li indossano come fosse un cappello. Pure Voncioni, complimenti. 5 metri di capelli lavati una volta all'anno. Io mi metto nei panni delle persone che intendono curarsi e credo che facciano un bel sacrificio. Andare da loro? Sì, andare dai fratelli O Satewo. Chicago, sono le 8 e 35 minuti primi, questa è Rock FM, buona giornata dall'Ariele anche a voi dell'ultima mezz'ora, fortunelli, perché questa puntata 184 è ricca di sorprese, soprattutto per voi, è in questi prossimi minuti che la squadra di Pane, Burro e Rock and Roll eseguirà per la prima volta un intero brano composto ed eseguito da musicisti rock con la bocca. Saremo io, faccio la chitarra, Rick fa la batteria, Isaac Rizzi fa il basso e Spadino non fa niente. Potresti fare i piatti tu, Spadino, dire tsh, tsh, tsh. Suoneremo gli ACDC con la bocca nella puntata di oggi, la 184. Non perdetevela per nulla al mondo. I have a dream. I have a dream. Oddio, adesso crede di essere Martin Luther King. Cosa fai tutto dipinto di nero, rogna? Zitto, frigo, sto provando il mio discorso. Non è che perché adesso c'è un candidato di colore negli Stati Uniti ti è venuta in mente sta cosa di siamo tutti fratelli, niente più discriminazioni? Ma va, lo faccio perché mi hanno detto che i topolini di colore ce l'hanno più... Sì, insomma, come dire, hanno delle dimensioni più importanti, diciamo così, di noi topolini bianchi. E allora pensavo di ingannare qualche bella topolina o topona vogliosa e di portarmela a letto. Questo è il piano. Certo, rogna, che te sei proprio pirla. Dici? Sì. La carica, l'energia della colazione più rock d'Italia. I put a spell on you, Creedence Clearwater Revival. Sempre una buona giornata dall'Ariele per stemperare un po' la tensione della nuova rubrica dedicata agli ACDC con la bocca. Do il benvenuto ad Andrea, patentato 147. Ciao caro, bentornato. Ciao a tutti, ciao a tutti. Solitamente si occupa della concorrenza delle altre radio. Di solito le ascoltiamo per o per rubargli delle idee o per lamentarci. Esatto, ci hanno copiato delle idee. O perché ci hanno copiato delle idee, no. Nella giornata di oggi io proporrei il primo intervento tranquillo. Perché tu c'hai sempre un po' la carogna con gli altri, no? Calmi. Ma se gli altri hanno delle belle iniziative, fanno delle cose interessanti, secondo me noi facciamo i signori e le segnaliamo. È vero, è vero. È così. Infatti volevamo lanciare un gemellaggio. Oh, bravo, così mi piace. Lo sento che lo dici a denti stretti perché ti ho dovuto convincere, ma ce la possiamo fare. Gemellaggio! Grande, grande gemellaggio tra Rock FM e addirittura Radio 2. Esatto. Che non si sa mai, che tra l'altro dovesse liberarsi un posticino. Gemelliamoci comunque a quelle più grosse. Insomma. Esatto. I gemellaggi con quelli più grossi a noi vengono sempre bene, anche se la nicchia vincerà, poi ricordiamo. Radio 2, Caterpillar, giusto? Esatto, Radio 2 Caterpillar da 4 anni hanno lanciato una iniziativa interessante, carina e positiva. Che riguarda il risparmio energetico. Tra l'altro, quindi faccio i miei complimenti perché il nome dell'iniziativa è uno dei nomi più belli che io abbia mai sentito negli ultimi anni. Mi illumino di meno. Esatto. Che fa la sua porca figura. Sicuramente sì. E il livello è alto. Molto. Il livello è alto. Mi illumino di meno, in cosa consiste? Risparmio energetico. Sì, esatto. I due DJ, Ciri e Solibello di Caterpillar, hanno lanciato già da 4 anni, lanciano questa iniziativa. La trasmissione comincia alle 18 e dalle 18 loro suggeriscono di spegnere le luci. Esatto. Quindi a tutti di spegnere le luci, e questo effettivamente ha dato un risultato enorme, perché certo, ovviamente lo dicono a privati, ma anche a enti pubblici piuttosto che aziende, che hanno un impatto importante. Loro che possono, tra l'altro. Beh sì, chiaramente. Io. Cioè, se ne spegniamo la luce, vabbè, ok, un pochino, vabbè. Però farlo tutti chiaramente ha un senso. Certo, il tutto per sensibilizzare sulla possibilità poi quotidianamente di risparmiare su alcuni sprechi che tutti facciamo, sì. Insomma. Adesso lo stand by della televisione, lo stand by dello stereo, quelle stupidate che sembrano stupidate, ma che in realtà se tutti prestassimo più attenzione a queste cose ci sarebbero risultati. Sì, così ci sarebbero dei risultati effettivamente. Tant'è che a questa iniziativa comunque hanno aderito comuni, è stata importante anche l'adesione delle piazze italiane che si sono spente, a Roma, Milano, eccetera, e anche aziende che hanno aderito, aziende importanti, Walt Disney, Osram, tutte aziende che comunque hanno aderito a questa. E quest'oggi alle 18 quindi spegneranno le luci. Esatto. C'è da dire che non è che i radioascoltatori di Rock FM poi oggi alle 18 devono sentire Caterpillar, adesso non ci allarghiamo. No, infatti, chiaramente no. Ci gemelliamo, voi ascoltate Rock FM e pensando a quelli di Radio 2 fate anche voi il vostro pensierino, ecco, questa era. Ascoltiamo Rock FM al buio. Esatto, ascoltiamo Rock FM al buio, potrebbe essere un'ottima idea. Tra l'altro è, a parte il complimento al titolo della rubrica Mi illumino di meno, sì, complimenti anche all'iniziativa che è molto bella e molto interessante. Medaglia, anche noi di Pane, Burro e Rock and Roll dobbiamo inventarci qualcosa. Sì. Prima o poi qualcosa di serio. Dobbiamo fare anche noi qualcosa di serio che fa molto trendy, fa molto chic. È un grande sforzo fare qualcosa di serio, però bisognerà pur farlo. Andrea, adesso mettiti comodo perché a proposito di robe serie, tra un brano scatta la rubrica degli ACDC con la bocca. Quindi, fantastico. Gustatela tutta anche tu. Alla prossima. Grazie mille. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. A voi ovviamente agli amici di Caterpillar volessero ricambiare il favore, magari promozionando la patente da vero rocker, io, Freak e Spadino siamo sempre a disposizione. Angry Like the Wolf. Dark in the city and the night is a wire. Steam in the subway and the earth is a fire. Oh yeah. Woman, you want me, so give me a sign. Out the way, them just a moment. Like kissing, it's too close to hide. I'll be upon you on the moon. Light, light. Oh, yeah. I'm jumping on your skin, it's so tight. I feel my heat in just a moment. Oh, yeah. Like the wolf. Scootably, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm hungry, baby. Was that too much? I never know. Da pane, burro e rock and roll siamo pronti a varcare il prossimo confine. Varchiamolo. Ce la siamo presa con i Beatles. Ce la siamo presa con i Led Zeppelin. A volte ce la siamo presa comoda, ma non stavolta. Sente cos'ho in sottofondo? Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Questi sono gli AC/DC. Ah, sì, gli AC/DC. Questa è Back in Black. Ah, che canzone, ragazzi. Un pezzo veramente di storia del rock australiano. Beh, io sarei pronto a farla con la bocca. Frick è già pronto, sta facendo la batteria. Scusi, ero distratto. Isaac, cosa ci fai? Il basso? Io faccio la chitarra con la bocca, che sarebbe gagagan gagagan. Alla voce chiamiamo in causa Trevor, il mitico cantante dei Sadist, direttamente dalla Genova che conta. Signore e signori, Spadino, sfumami gli AC/DC originali, perché siamo pronti a farveli sentire con la bocca. Ragazzi, con impegno! Back in Black con la bocca. Another round. So look at me now, just making my play. Step for shot, just get on my way. When I'm back, yes, I'm back. When I'm back, yes, I'm back. When I'm back, yes, I'm back. When I'm back, yes, I'm back. Yes, I'm back. Break. Down.

è ufficiale, sembra che i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll, più andiamo avanti, più noi peggioriamo le nostre rubriche, più voi ormai vi siete talmente assuefatti che non vi lamentate nemmeno più. Ho una scarica di commenti positivi, di complimenti alla rubrica degli ACDC con la bocca. Grazie, grazie da parte mia. Spadino, Fricca, Isacrizi, apprezziamo e ci fa piacere sapere che state crescendo insieme a noi. Siamo tutti conciati malissimo, ormai è ufficiale. È la fine, questa è la fine. Archiviamo la puntata 184. In molti chiedono come fare per risentire Back in Black con la bocca. Io vi consiglio il nostro spazio myspace.com/paneburrofm e lì da dopo pranzo o anche prima ci troverete il brano che ve lo potete pure scaricare. Vai! Pane, burro e rock and roll. Così te la metti come suoneria al posto di Buon Natale però rock. Colazione rock. Che adesso al 15 di febbraio. Pane, burro e rock and roll. Suona un po' male. Spaccatevi nel weekend! Yeah! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tra l'altro giro i tanti complimenti che arrivano anche al mitico Trevor, dicevo cantante dei Sadi, storica voce del metal genovese che ci ha aiutato nella composizione di questa Back in Black. Sappiate che ce ne sono molte altre già quasi pronte, quindi preparatevi, sarà il nuovo tormentone, anche se settimana prossima, per restare un po' sul pezzo, presumo che proporremo i Beatles in italiano. Abbiamo un di ritorno dall'URSS che potrebbe interessarvi, Back in USSR, però interpretata vera, suonata e cantata come solo noi di Pane, Burro e Rock and Roll sappiamo fare. Vi auguro uno splendido weekend e vi ricordo anche no, non ve lo ricordo più, lo facciamo ricordare via spot. Sì, le altre, guarda, abbiamo solo novità, cioè io non ho parole. Pane, Burro e Rock and Roll ha troppe novità. Ciao dall'Ariele, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo lunedì. Mi è venuta un'idea! Quale sentiamo? Perché non mettiamo su un gruppo musicale? Ma di quelli tosti! Per far conoscere la nostra condizione di cavi da laboratorio a tutto il mondo! Ah, un gruppo sensibile ai problemi sociali, grande idea! Così, intanto che denunciamo la nostra condizione disagiata, maledetti umani, approfittiamo della fama per rimorchiare qualche bella topina cavietta. Tipo, guarda, quella della gabbietta 26. Ma non capisci niente! Sei il solito incorreggibile maiale, anzi, un caviale! Un incrocio tra una cavia e un maiale! Questa mi è talmente piaciuta che ti perdono e non mi sono nemmeno offeso! Va bene, ci sto a fare il gruppo! Ma concentriamoci sul rimorchio. Prossimamente Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo. A lunedì prossimo. Ciao.